Europa 24. E benvenuti a questo appuntamento di Europa 24 da Valentina Furlanetto. E allora è iniziato il vertice informale europeo a Bratislava. Parliamo di questo nel nostro appuntamento europeo. Siamo in una situazione critica, ha detto prima di iniziare questo appuntamento informale a 27 la cancelliera tedesca Angela Merkel. Si tratta, ha detto, di dimostrare coi fatti che possiamo diventare migliori nel campo della sicurezza interna ed esterna, nella collaborazione, nella lotta al terrorismo, nel campo della difesa, in quello della crescita dei posti di lavoro. A Bratislava si parlerà anche di migrazione, rilancio dell'Europa, Brexit e difesa comune. La stabilità più importante è quella dei nostri figli prima ancora che delle regole, ha dichiarato il premier italiano Matteo Renzi arrivando al castello dove si terrà il vertice, mentre il presidente francese François Hollande punta sulla difesa europea. È la sfida per l'Europa, ha detto Hollande, che deve essere capace di proteggersi da sola. All'ordine del giorno, come dicevamo, anche la Brexit. Questo è d'altra parte il primo vertice europeo dopo l'addio della Gran Bretagna all'Unione Europea. Ne ha parlato il presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. The United Kingdom is a G7 country. Il vertice di Bratislava, ha detto, è uno dei più importanti in assoluto, perché dopo la Brexit i 27 leader devono decidere cosa vogliono fare dell'Unione, ha detto Schulz. La questione chiave è quale Unione Europea si vuole. L'Unione è forte tanto quanto gli Stati membri le permettono di essere. Ma allora proprio da Bratislava sentiamo l'inviato del Sole 24 Ore, Beda Romano. È in un clima teso che i 27 partner del Regno Unito si stanno riunendo oggi qui a Bratislava per discutere del futuro dell'Unione dopo la drammatica decisione della Gran Bretagna di lasciare la casa comune europea. Il dibattito tra i capi di Stato e di Governo sarà segnato dal duro confronto tra l'Est e l'Ovest dell'Europa. Ancora oggi non sono mancate le schermaglie. Incontrando il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, il premier ungherese Viktor Orban ha chiesto il rispetto dei partner per il suo paese. Gli stati dell'est sono accusati da più parti di egoismo e di insensibilità perché non hanno accolto i profughi in arrivo dal vicino oriente. In verità, la scelta inglese ha scosso l'Unione, ponendola drammaticamente in bilico tra integrazione e disintegrazione. Nei fatti, l'incontro di Bratislava deve servire a ricreare una certa unità tra i 27 che vogliono darsi una tabella di marcia per prossimi 6 mesi, con l'obiettivo di riavvicinare le opinioni pubbliche al progetto europeo. Con l'occasione, i capi di Stato e di Governo vogliono appoggiare proposte concrete per migliorare la sicurezza delle frontiere, rafforzare la crescita economica, promuovere la mobilità dei giovani. Basterà per contrastare una lenta deriva verso la disintegrazione? Nulla è più incerto in questa fase della storia comunitaria. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bratislava. Per Europa 24 è tutto. L'appuntamento europeo delle 14 torna lunedì. Buona giornata da Valentina Furlanetto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.